Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Lo scontro tra due treni in Puglia, tra Ruvo e Corato, a nord di Bari, decine di feriti, a quanto pare ci sarebbero vittime, forse addirittura 10 secondo alcune fonti. Entro l'anno l'addio ad Equitalia, dice Renzi. Salvini, il solito annuncio, tensioni tra manifestanti e polizia al museo dove è atteso il premier a Milano. La sofferenza delle banche è risalita a 200 miliardi di euro, secondo la Banca d'Italia. Oggi riunione dell'Ecofin mentre prosegue la trattativa tra Roma e Bruxelles. Timbravano anche con una scatola in testa per non farsi riconoscere, altri 23 assenteisti pescati dai carabinieri nel napoletano. 'Ndrangheta e corruzione, arresti tra funzionari pubblici a Reggio Calabria, coinvolto anche l'ex senatore di Alleanza Nazionale Domenico Kappler. Il Tribunale Internazionale dell'AIA ha dato ragione alle Filippine nella disputa sul controllo di scogli ed atolli strategici nel mare della Cina del Sud. Polemica sull'ANAS per il cantiere sull'Aurelia. In Toscana, sulle strade del mare, un'intera carreggiata chiusa fino all'11 agosto. Partorisce sul traghetto e il bambino muore. La Sardegna, unica regione italiana a non avere l'elisoccorso nonostante abbia elicotteristi formati. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp e per le anticipazioni sulla trasmissione, anche il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno. Iniziamo dunque questa puntata con le notizie che stanno arrivando dalla Puglia e sono notizie veramente drammatiche, sono quelle, come avete sentito dai titoli, di uno scontro avvenuto tra due treni locali. Abbiamo in linea Lucia De Mari, che è una collega, una giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, che si trova sul luogo. Lucia, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi dalle campagne assolate fra Corato ed Andria. Allora, dacci un quadro della situazione, che cosa vedi, che cosa si sa al momento. Allora, binario unico, due treni si scontrano, due treni regionali della ferrotranviaria, modernissimi, di ultimissima generazione, si sono scontrati frontalmente, probabilmente per un errore umano naturalmente. La scena è disastrosa, vista sia dall'alto, dalle foto dei carabinieri, che dal basso, qui nelle campagne fra Corato ed Andria. Si parla purtroppo di un numero abbastanza alto di decessi che, come avete detto appunto, potrebbe essere destinato purtroppo a salire. I feriti sono numerosissimi perché le due carrozze erano piene di pendolari, di ragazzi che raggiungono Bari da Andria o da Corato, e purtroppo si sono scontrate frontalmente e le carrozze sono distrutte. Sì, abbiamo visto tra l'altro le immagini che sono state diffuse appunto dai vigili del fuoco, sì. E si vedono le due carrozze che sono sostanzialmente sbriciolate, le prime due carrozze. Sì, le prime due carrozze sbriciolate, assolutamente. E si stanno, diciamo, sono i vigili del fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile, hanno allestito un campo anche per trasportare i feriti, che già numerosi, stanno partendo con le ambulanze. Vi lascio immaginare la situazione in queste stradine di campagna, tra l'altro impraticabili, con gente che comincia ad arrivare a chiedere i nomi dei propri congiunti che erano, insomma, stavano viaggiando a quell'orario, intorno alle 11:30, sulla tratta Andria-Bari. Ferrovie Bari Nord. Immagino, Lucia, che i giornalisti siano tenuti in parte, sì, a distanza, come è normale, certo, che sia. Che cosa, certo, vedi dalla tua posizione? Senti, c'è, cioè, il treno, appunto, quel che resta del treno riusciamo a vederlo, e vediamo ambulanze che vanno e vengono e barelle con gente sopra. E sono arrivati anche gli elicotteri, adesso c'è quello della protezione civile, chiaramente. È una scena abbastanza brutta da vedere, anche da descrivere. Allora io ti ringrazio, grazie Lucia, e speriamo di non disturbarti, magari richiamandoti nel corso della trasmissione per avere ulteriori aggiornamenti su quello che sta succedendo, su come evolve la situazione. Nel corso della trasmissione, tra l'altro, è un evento di poco fa, stiamo cercando di raggiungere altre persone che ci possano raccontare esattamente cosa succede, qual è il quadro della situazione, avere notizie più precise. Stiamo tentando di contattare ovviamente la Regione Puglia, i comuni che sono là intorno e ovviamente chi sta intervenendo tra i vigili del fuoco e la protezione civile. Poi appunto magari torneremo a collegarci anche con i giornalisti che si trovano là. Nel frattempo passiamo alle altre notizie e continueremo ad aggiornarvi su tutto questo. Iniziamo dalla visita di Renzi Firenze a Milano. Tra i temi toccati anche le banche, ma non solo quello, si è parlato anche di Equitalia. Marta Cagnola, buongiorno. Buongiorno Simone, sì, mi trovo davanti al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, all'interno in corso l'inaugurazione della sezione Extreme alla ricerca delle particelle. Questa, come dicevi, l'ultima tappa della giornata milanese del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha annunciato che tornerà immediatamente a Roma per seguire le notizie sull'incidente ferroviario. Ha detto il Ministro Delrio è già al lavoro, ma mi capirete, io scappo al volo perché è il momento del dolore, ma anche di scoprire al più presto qual è la verità. Da qui Renzi, dal Museo della Scienza e della Tecnologia, ha parlato di Milano come una città punto di riferimento del mondo di domani, di un'Italia leader della fisica. In mattinata il Presidente del Consiglio aveva incontrato il sindaco Beppe Sala a Palazzo Marino. La capitale è ovviamente Roma, ha detto, ma Milano è la capitale economica del paese, anche dei valori e del volontariato e anche delle opportunità, non solo legate al post-Brexit. In mattinata Renzi era stato ospite anche di una trasmissione radiofonica su RTL e proprio qui, come dicevi, ha parlato tra l'altro di banche. Dopo Brexit è fondamentale che ci sia più buon senso nell'Unione Europea e alla domanda se i correntisti MPS possono dormire tranquilli ha risposto sì e ha ribadito ci saranno delle riforme per quanto riguarda la riscossione dei tributi, quindi novità che riguardano Equitalia. Per concludere, una nota di cronaca: una quarantina di manifestanti dei centri sociali di Milano aveva tentato di avvicinarsi al Museo della Scienza, ci sono stati alcuni tafferugli con le forze dell'ordine, ma poi la situazione è tornata alla normalità e per ora è tutto da qui. E ti ringrazio, grazie a Marta Cagnola per questo aggiornamento. Già ci accennava al tema delle banche, bene, oggi sono arrivati degli aggiornamenti di Banca Italia sui crediti non più esigibili da parte delle banche, le cosiddette sofferenze, mentre è riunito l'Ecofin. Aumentano ancora le sofferenze bancarie a maggio e sfiorano i 200 miliardi di euro, lo dice Banca Italia nell'ultimo bollettino statistico dedicato a moneta e banche. I crediti difficili da riscuotere degli istituti di credito si avvicinano così al picco di più di 202 miliardi di euro toccato in gennaio. Un problema, quello delle sofferenze bancarie, all'attenzione di Bruxelles. Ufficialmente alla riunione Ecofin di oggi le banche non sono all'ordine del giorno, ma continua il confronto tra Roma e la Commissione per sciogliere il nodo delle sofferenze tutelando i risparmiatori. Si punta a trovare una soluzione prima del 29 luglio, giorno in cui la Banca Centrale Europea renderà noto gli esiti degli stress test effettuati su 53 banche europee, incluso il Monte dei Paschi di Siena. Il problema delle banche, ha detto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, riguarda anche la Germania, ma può essere risolto con il buon senso applicando le regole in vigore. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Problemi quelli delle banche italiane che si sono acuiti dopo il referendum con il quale la Gran Bretagna ha deciso di uscire dall'Unione Europea. Dunque andiamo proprio in Gran Bretagna, andiamo da Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, Londra che attende l'insediamento di Theresa May come primo ministro per la giornata di domani. Leonardo, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Allora, che cosa ci si può attendere dalla May? Da me ci si attenderà, dal punto di vista della politica interna, è il personaggio ideale per riunificare un partito così diviso dal Brexit, tra i favorevoli all'uscita dall'Unione Europea e i favorevoli invece a continuare il percorso comune. È una figura di mezzo perché era una sostenitrice di Remain, ma molto blanda, è molto rigida sull'immigrazione, è ancora ministro degli interni. Ed aveva avuto una politica molto, come dire, aveva avuto delle espressioni e delle manifestazioni severe sul problema dell'immigrazione intracomunitaria, accettando però poi il compromesso che Cameron aveva raggiunto con i colleghi a Bruxelles. Quindi c'è da aspettarsi che sarà capace di riunificare il partito, ma sarà una voce molto severa all'interno del negoziato con l'Unione Europea, cercando comunque di non muovere dal principio fondamentale per lei che l'immigrazione intraeuropea va limitata. Questo a prezzo di cosa? A prezzo della rinuncia al mercato interno, che è essenziale per la Gran Bretagna per poter mantenere una presenza così importante come quella che ha nei servizi finanziari. Questo è il dilemma che avrà la May, perché se non cede sull'immigrazione, certamente dovrà cedere sul mercato interno. Questo è il messaggio chiaro che arriva dai partner. E ti ringrazio, grazie Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, per questa analisi. Noi torniamo all'Italia per parlare di assenteismo nella pubblica amministrazione e poi tra poco torneremo anche ad aggiornarvi su quello che è successo in Puglia, lo ricordiamo, perché si fosse messo in collegamento solamente adesso, c'è stato uno scontro tra due treni regionali appena a nord di Bari, tra Ruvo e Corato. Le vittime, secondo alcune indicazioni che stanno arrivando in queste ore e che vanno ancora confermate, evidentemente le vittime sarebbero 10, ci sono sicuramente decine di feriti. Stiamo cercando conferme anche sulle informazioni che stanno arrivando, sono al lavoro i vigili del fuoco, la protezione civile e ovviamente tutti gli enti preposti. Naturalmente stiamo appunto cercando di avere notizie maggiori e confermate e vi aggiorneremo tra breve. Torniamo intanto all'Italia per parlare di altri argomenti, di assenteismo nella pubblica amministrazione. 23 dipendenti del comune di Bosco Trecase, siamo nel napoletano, sono accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato. 200 episodi di assenteismo. In alcune immagini si vedono quelli che ormai vengono chiamati i furbetti del cartellino strisciare il badge per i colleghi coprendosi il volto con una scatola di cartone per non farsi riconoscere. Il comune rischia ora la chiusura perché quattro uffici non hanno più dipendenti. Il sindaco di Bosco Trecase, Pietro Carotenuto, al microfono di Matteo Riberto. Un'indagine partita a gennaio 2016, i mesi di riferimento più o meno sono gennaio e febbraio 2016, si è conclusa subito e oggi hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare per 23, 30 sono gli indagati e 7 sono situazioni marginali, quindi soltanto 23 sono sottoposti a misura cautelare, 6 dei quali agli arresti domiciliari, gli altri hanno bene o male tutti la sospensione per 12 mesi, soltanto 3 mi pare per 6 mesi e hanno poi l'obbligo di firma. 200 episodi di assenteismo in poche settimane, come facevano ad accorgersene? Io sono sindaco da un mese, sono stato eletto il 5 giugno e la proclamazione il 7, quindi sono dall'8 in funzione qui in comune, sono episodi che si riferiscono a gennaio e febbraio, quindi nella passata amministrazione che si è conclusa il 27 febbraio con la sfiducia al sindaco, al precedente sindaco, poi c'è stato il commissariamento con il commissario straordinario inviato dalla prefettura per 2 mesi, poi ci sono state le elezioni e sono sindaco praticamente da un mese, quindi ci si riferisce a episodi relativi alla passata amministrazione, quindi non ero in carica, non me potevo accorgermene. Un appalto da 250 milioni al centro dell'inchiesta sull''ndrangheta che ha portato a 23 arresti, ci sono anche dei politici. Ci sono l'ex senatore di AN Domenico Kappler, funzionari del comune di Reggio Calabria e imprenditori reggini, romani e milanesi tra i coinvolti nell'operazione che ha portato all'esecuzione di 10 fermi, colpiti imprenditori e amministratori del comune reggino accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, turbata libertà degli incanti, truffa, corruzione, intestazione fittizia di beni ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. I carabinieri si sono mossi anche a Roma, Milano, Brescia e Crotone, smantellando un vero e proprio comitato d'affari, capace di gestire la macchina amministrativa comunale nell'interesse dell''ndrangheta. Al centro dell'inchiesta c'è un appalto pubblico da 250 milioni di euro per il completamento e l'ottimizzazione del sistema di depurazione delle acque e la gestione delle risorse idriche di Reggio Calabria. Al vertice del comitato d'affari ci sarebbe stato l'ex deputato PSD Paolo Romeo, già ai domiciliari dal 9 maggio scorso, che avrebbe diretto una vera associazione segreta finalizzata al procacciamento di finanziamenti pubblici. Il senatore Kappler, che vanterebbe una significativa capacità di influenza con la società Acea di Roma, avrebbe avuto invece un ruolo di corruttore. Coinvolte diverse aziende di tutta Italia e anche spagnole e sequestrati beni per un valore di più di 42 milioni di euro. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. Andiamo all'estero, adesso le Filippine hanno vinto il ricorso contro la Cina sulla vicenda degli scogli nel mare della Cina del Sud. La Cina non riconoscerà o accetterà mai il responso a suo sfavore deciso dal Tribunale dell'Aia sul contenzioso nel Mar Cinese meridionale promosso dalle Filippine. La prima risposta ufficiale di Pechino piomba proprio sui lavori del vertice Cina-UE e produce come primo effetto la sospensione delle previste conferenze stampa. La sentenza è nulla, invalida e non vincolante, scandisce la nota ufficiale aggiungendo che gli interessi marittimi nel Mar Cinese meridionale non possono essere essere sotto alcuna circostanza affetti da queste sentenze. La Cina era pronta a reagire alla decisione che riguarda un contenzioso con le Filippine, ma sottintende il rapporto di forza con gli Stati Uniti lungo il confine di mare tra Filippine, Taiwan e Giappone. Solo pochi giorni fa l'ultimo monito rivolto proprio a Tokyo perché possa fare propria la lezione della storia nella gestione del contenzioso sulle isole Senkaku, che oggi sembra ancora più pericoloso per la stabilità della regione. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, sentiamo come sempre cosa succede sulle strade, poi inizieremo il nostro giro per l'Italia e lo inizieremo però oggi in maniera particolare con le notizie che continuano ad arrivare dalla Puglia, dove, lo ricordiamo, si sono scontrati due treni regionali e ci sono a quanto pare una decina di vittime. Poi ci occuperemo anche di strade proprio e andremo a parlare con l'ANAS, che ha deciso di realizzare un cantiere in una strada molto trafficata, chiudendo un'intera carreggiata. Una strada molto trafficata per l'estate tra l'11 luglio e l'11 di agosto, e poi ci occuperemo anche di accoglienza di migranti. Ma innanzitutto resta il cuore di questa trasmissione oggi evidentemente quello che è avvenuto in Puglia. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della visita di Renzi a Milano, delle sofferenze delle banche, di un nuovo caso di assenteismo pescato ai carabinieri nel napoletano, abbiamo parlato di 'ndrangheta e di corruzione, abbiamo parlato della decisione del Tribunale dell'Aia sugli scogli e gli atolli nel mare della Cina del Sud. Adesso torniamo in Puglia e torniamo nel Barese, dove c'è stato questo scontro tra treni gravissimo, dove le vittime sarebbero almeno a quanto pare una decina. E torniamo da Lucia De Mari della Gazzetta del Mezzogiorno. Lucia, eccoci di nuovo. Buongiorno, sono ancora qui sul campo. Sì. Sul campo, e la polizia si sta facendo indietreggiare su questa scena terribile di un vero e proprio disastro ferroviario. 7 i morti accertati, 4 in codice rosso, ma si stanno estraendo altri corpi, altri feriti, speriamo. La protezione civile ha allestito un campo di primo soccorso. È arrivato il presidente Emiliano in questo istante, il presidente della regione Puglia sta arrivando in questo istante, scortato chiaramente dai suoi uomini con alcuni altri consiglieri regionali, vanno appunto a rendersi conto della situazione disastrosa che immagino abbiate visto anche su internet. Sì. Sui telegiornali. 7 morti accertati e si spera che finiscano lì, però. Sì. Come ci dicevi, stanno ancora lavorando, come dire, vigili del fuoco, perché ci sarebbero ancora persone incastrate nelle lamiere. Molte. I due vagoni erano pieni di ragazzi e di pendolari, per cui alcuni, molti dei quali girano qui nelle campagne spauriti, piangendo, perché erano pieni, erano due vagoni e due treni pieni, perché sono città popolosissime. Andria 110.000 abitanti, Corato 60, insomma, voglio dire, una tratta ferroviaria della Bari Nord, ferrotranviaria, modernissimi treni di ultimissima generazione, che purtroppo, probabilmente per un errore umano, perché non si spiega altrimenti, camminavano sullo stesso binario da direzioni diverse, contrarie. Sì. Un binario unico, appunto, un tra l'altro, perché unico, poi anche quello andrà sottolineato successivamente, perché è il grande tema, uno dei grandi temi delle ferrovie italiane. Io intanto ti ringrazio, grazie a Lucia De Mari. Ci risentiamo magari più tardi per ulteriori aggiornamenti. Noi cambiamo argomento almeno per il momento e mettiamo il primo punto sulla mappa nelle nostre storie di approfondimento, e tra un attimo torneremo anche alla Puglia, vi daremo tutti gli aggiornamenti che vi dobbiamo dare naturalmente. Lo mettiamo in Toscana, dove c'è un po' di polemica da parte degli enti locali per una decisione dell'ANAS. Qual è questa decisione? Sulla statale 1 Aurelia, in una parte molto trafficata durante l'estate, perché è quella che porta un po' verso tutte le zone di mare della Toscana, insomma, dall'area del Livornese, passando ovviamente per tutta l'area del Grossetano e così via, si è deciso di far partire un cantiere che sarà dall'11 luglio all'11 di agosto e che farà sì che l'intera carreggiata sarà chiusa e là si procederà a senso unico alternato. Luigi Mupo è il dirigente tecnico dell'ANAS Toscana. Mupo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno ai soci. Ho visto che addirittura c'è stata una riunione in questura su questa vicenda. In questura, sì, e in prefettura, insomma, sì, dove abbiamo dovuto chiaramente far capire il perché di questa necessità di ripristinare, insomma, urgentemente la pavimentazione stradale. Intanto vorrei precisare una cosa: il cantiere, anche a seguito degli approfondimenti che ci sono stati ieri, insomma, in prefettura, sarà limitato al periodo 11 luglio 28 luglio, quindi noi abbiamo già riprogrammato le attività di cantiere e abbiamo già disposto l'incremento dei turni di lavoro per ridurre la durata, diciamo, al minimo strettamente necessario. Ma senta, ma era proprio necessario farlo in questo periodo? Perché ovviamente la gente che passerà di là se lo chiederà, perché lei dice fino al 29 luglio, poi vediamo, noi speriamo che si rispetti il cronoprogramma, questo paese è particolare, ci fidiamo di lei per il momento, diciamo così, insomma, poi chissà che succede, però insomma là la gente viaggia per andare al mare, si muove e dirà, ma insomma... Proprio allora, in questo periodo. Sì, allora intanto dobbiamo dire che i lavori rientrano nell'ambito di questa operazione che ANAS ha avviato sull'intero territorio nazionale. Il bastabuche sulle strade prevede un investimento di circa 300 milioni di euro in 3 anni, di cui 15 in Toscana. In particolare sull'Arelia noi abbiamo la disponibilità per quest'anno di 5 milioni di euro, quindi di questa prima tranche, che prevede l'esecuzione di ben 7 interventi di pavimentazione. Non sono semplici rappezzi che noi andiamo a realizzare sulla strada, sono interventi di ricostruzione di strati profondi, con la realizzazione di asfalto drenante. Sono interventi sostanzialmente su un'arteria che, devo dire la verità, ne aveva particolare bisogno di manutenzione. La domanda non si poteva fare a settembre? 7 interventi tutti a settembre, diciamo, l'intervento ha un suo tempo tecnico di esecuzione che avrebbe potuto interessare il periodo, diciamo, delle piogge. Sono interventi, ripeto, per i quali insomma il tempo buono è fondamentale per una buona riuscita, una buona esecuzione. E non si potevano fare di notte? Non sono interventi che si possono realizzare, diciamo, nell'arco temporale di una giornata, perché ripeto, noi andiamo a ricostruire gli strati profondi rimuovendo tutto il conglomerato bituminoso e andando a stabilizzare sostanzialmente il sottofondo, quindi sono interventi che non possono essere aperti e chiusi nell'arco di una giornata, di una nottata, quindi niente, purtroppo sono dei tempi tecnici, cioè il fare crea sempre disagio. Sì. Quindi io, al di là delle polemiche, auspico che gli enti locali sicuramente, insomma, sicuramente al di là delle polemiche non faranno mancare il loro appoggio, insomma, ci consentiranno di ridurre i disagi, insomma, al minimo strettamente. Purtroppo, ripeto, quando ci sono cantieri, lei dice non si poteva fare diversamente. Vabbè, io la ringrazio intanto. Luigi Mupo, dirigente tecnico dell'ANAS Toscana, magari nei prossimi giorni sentiremo anche gli enti locali. Intanto vogliamo andare in un ente locale ma di tutt'altra zona, siamo in provincia di Padova, Bagnoli di Sopra. Il vice sindaco Luca Traversi è con noi. Vice sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie per darci questa opportunità, allora, di farci sentire. È il grande tema di come viene gestita l'accoglienza di richiedenti asilo e migranti in questo paese, e là ritorniamo. Non siamo molto distanti da Cona, dove siamo andati l'altro giorno parlando con il sindaco, e dove in un paese di 2800 abitanti sono raccolte 600 persone in un'ex caserma che non è né un hub né un centro di identificazione, non è nulla. E anche a Bagnole di Sopra il problema c'è, perché avete, secondo dati della prefettura, 410 persone su un paese di che dimensioni? Allora, 3.000 abitanti, sì, comprensive di tre stazioni, e la base aeronautica dove appunto viene ospitato l'hub e tutti quanti i richiedenti asilo è a San Siro, e la frazione di San Siro ha 800 persone. A me fa piacere che voi abbiate detto 410 dati della prefettura, perché noi come ente locale, come comune, la prefettura non ha mai comunicato gli effettivi. Ah, guardi, l'ho letto sul Corriere della Sera, quindi insomma, allora, diciamo, non... Ecco, ieri sera sembrava che fossero 800. E mi sono fidato, nel senso, è un giornale normalmente abbastanza affidabile su queste cose. Sì, sì, no, ma speriamo che siano solo 410, perché insomma sembrava che fossero un po' di più. Però comunque un numero considerevole, sì, vista il territorio, visto la popolazione che c'è appunto nel nostro territorio, è appunto il nostro comune. Ma come se ne esce, vice sindaco? Lei si è fatto un'idea di questo? Allora, noi auspichiamo che gli enti locali, quindi i nostri comuni vicini, che comunque ci hanno sempre dato appoggio, che le istituzioni provinciali, che la regione e anche il governo centrale cerchino di attuare soluzioni concrete, perché sembra quasi che appunto l'hub provinciale di Bagnoli sia il posto dove scaricare i problemi che ancora non si è in grado di risolvere. E noi abbiamo avuto un grande aumento di persone in queste due settimane, perché la Prandina di Padova è stata chiusa e nel nostro hub hanno mandato tutti i ragazzi, perché diciamo che le donne e i bambini li hanno dirottati da qualche altra parte. Il nostro invece è un hub provinciale prettamente maschile. Traversi, voi siete ad un passo da Cona, dove noi siamo stati l'altro giorno. Siete a 5 km, cioè siete in provincia di Padova, ma siete ad un passo da Cona, che è in provincia di Venezia, dove è fatto che abbiamo raccontato. Quindi di fatto là si stanno addensando sostanzialmente tutti i migranti e richiedenti asilo del Veneto. Tra l'altro sì, perché Cona è per la provincia di Venezia e Bagnoli è per la provincia di Padova, ufficiosamente sono gli hub provinciali e purtroppo tutto il territorio ne subisce, perché tra i due comuni c'è il comune di Agna, che non ha richiedenti asilo mandati dalla prefettura, però è il punto d'incontro tra i due hub, quindi quando escono si trovano ad Agna. Agna è il paese che magari, pur non avendoli, però anche quel paese sta subendo un grosso danno. Diciamo, abbiamo sostanzialmente un migliaio di richiedenti asilo piazzati in caserme che non si sa esattamente cosa siano, cioè sono degli hub, però non sono... quella di Bagnoli, diciamo che rispetto a quella di Cona è un po' meglio. Un po' meglio, sì, perché è un ex caserma militare, 10 anni fa c'era il circolo degli ufficiali, sì. sono messi bene. Messi meglio, perché il sindaco di Cona invece ha usato l'espressione "da noi sono accatastati", e non volendo essere irrispettoso nei confronti di queste persone, ma semplicemente raccontandoci la situazione surreale nella quale sono. Bene, io la ringrazio, grazie a Luca Traversi, vice sindaco di Bagnoli di Sopra, perché ci ha consentito anche di tornare su questo tema. Stiamo raccogliendo un po' di storie su tutto questo, e poi a un certo punto parleremo anche col Ministero dell'Interno, perché ci sembra una gestione folle, così come è folle la gestione a Milano per quello che sta avvenendo e che stiamo vedendo in queste ore, con la gente accampata davanti alla stazione centrale, le proteste nell'ex centro di accoglienza in via Corelli. Alberto Sinigallia, il presidente della Fondazione Progetto Arca, che gestisce molti dei luoghi dove arrivano i richiedenti asilo e i migranti a Milano. Buongiorno e benvenuto, Sinigallia. Buongiorno. Allora, sento una cosa, noi siamo in gravissimo ritardo sugli aggiornamenti di borsa, quindi io le devo chiedere di aspettare un attimo in linea e parliamo un attimo anche con lei di questa situazione a Milano, che ci sembra abbastanza surreale anche quella, però lo facciamo dopo la pausa, la borsa, poi ci ritroveremo per un aggiornamento su quello che è successo in Puglia e poi parleremo con lei. Effetto giorno. Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In primo piano lo scontro che è avvenuto tra treni in Puglia, tra due treni regionali in Puglia, tra Ruvo e Corato. Sono, a quanto pare, secondo alcune fonti delle quali parlano le agenzie in questi minuti, sono 11 le vittime, ci sono decine di feriti, molti in codice rosso. Non abbiamo ancora certezza su come siano le cose perché ci sono ancora i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile al lavoro che stanno estraendo persone dalle lamiere. Due treni viaggiavano appunto in due direzioni opposte su un binario unico e si sono scontrati. Saranno anche ovviamente nelle ore successive, questo è il momento dei soccorsi, da accertare le cause di tutto questo. Le altre notizie: le sofferenze delle banche sono in risalita a 200 miliardi di euro secondo quello che dice la Banca d'Italia. Oggi riunione dell'Ecofin mentre prosegue la trattativa tra Roma e Bruxelles. Un altro caso di assenteismo nella pubblica amministrazione: timbravano anche con una scatola in testa per non farsi beccare dalle telecamere, 23 pescati dai carabinieri nel napoletano. Un'indagine invece per 'Ndrangheta e corruzione: ci sono stati arresti tra funzionari pubblici a Reggio Calabria, coinvolto anche l'ex senatore di Alleanza Nazionale Domenico Kappler. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo. Innanzitutto un aggiornamento su quello che succede in Puglia, dove, lo ricordiamo per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, c'è stato uno scontro tra due treni regionali su un binario unico. Si sono scontrati appunto, c'è stato uno scontro frontale. Le immagini ci mostrano, tra l'altro, le immagini che ci sono state mostrate sono terribili perché si vedono i due vagoni letteralmente sbriciolati. L'ultimo aggiornamento arriva dal vicepresidente della Regione Puglia con delega alla Protezione Civile ed è un brutto aggiornamento perché dice la situazione è drammatica e sul numero dei morti, finora 10 quelli accertati, siamo in grosso difetto. Queste le parole del vicepresidente della Regione Puglia con delega alla Protezione Civile Antonio Nunziante all'Ansa. Dice che si sta aspettando l'arrivo del ministro Delrio, la macchina dei soccorsi sta funzionando bene, ma appunto si stanno ancora estraendo persone dalle lamiere. Queste le ultime notizie che abbiamo: 18 feriti finora negli ospedali di e Barletta, ma probabilmente di feriti ce ne saranno ancora di più. Noi adesso ci fermiamo un attimo con gli aggiornamenti dalla Puglia, ci torneremo tra poco e magari torneremo a collegarci con Lucia De Mari, la collega della Gazzetta del Mezzogiorno, che ci sta aiutando a raccontare tutto quello che è successo, e torniamo sul tema dell'accoglienza ai migranti. Abbiamo detto che avremmo parlato di Milano. Qualche ascoltatore ci scrive: ma avete visto Ventimiglia? Sì, ce ne siamo occupati tantissimo. Qualche altro ascoltatore ci dice: ma avete visto la situazione a Como, alla stazione San Giovanni? Sì, ne sappiamo qualcosa, intendevamo occuparcene perché là arrivano le persone che sono respinte dal confine svizzero, ma anche a Milano c'è una situazione decisamente problematica ed è di questo che vogliamo parlare con Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione Progetto Arca. Allora Sinigallia, eccoci qua. Mi spiega come mai si è acuito il problema in queste ultime ore, in questi ultimi giorni? Sì, nel mese di giugno ci sono stati una media di meno di 100 arrivi al giorno, stiamo parlando dei transitanti che arrivano spontaneamente in stazione centrale e vogliono proseguire il viaggio verso Nord Europa. Nei primi 11 giorni di luglio ne sono arrivati più di quanto in tutto giugno, per cui oltre 220 di media. Questo ha fatto sì che l'accoglienza a Milano non abbia retto in questi giorni. Proprio entro fine settimana il comune sta ampliando i posti per cercare di non far dormire più nessuno in strada. Devo dirle, Sinigallia, voi gestite appunto vari centri di accoglienza a Milano. L'impressione complessiva, anche da una persona che si occupa del settore, ha sentito probabilmente prima l'intervista che abbiamo realizzato col vice sindaco di Bagnoli di Sopra in Veneto, l'impressione complessiva è che il sistema non stia funzionando per nulla. Nel suo complesso, diciamo, cioè anche a livello centrale, a livello di prefetti, non sia gestito con particolare sapienza, ecco. Sì, sono due le problematiche. Una è quella dei transitanti. L'anno scorso il 99% andava nel Nord Europa, quest'anno solo il 20%, per cui il problema delle persone che transitano a Milano e vanno nel Nord Europa è dovuto al fatto che le frontiere sono chiuse, per cui c'è una congestione e i posti letto sono pieni di richiedenti asilo e non più di transitanti, per cui insomma questo è il problema dei transitanti, che sarà sempre più aggravato perché le persone aspettano un anno per avere la commissione. Per cui, sì. L'altro problema invece sulla gestione globale lo è un problema non solo italiano ma direi europeo, perché se i Balcani sono chiusi, le frontiere dell'Europa sono chiuse e l'Italia sì. È l'unica che accoglie, ovviamente il sistema dei ricollocamenti non funziona, come sappiamo. Il sistema dei ricollocamenti non funziona perché gli si chiede di andare in luoghi che non sanno neanche loro, per cui uno parte e sull'aereo gli dicono la nazione in cui andrà, per cui pochissimi decidono di andare. Certo. Allora la ringrazio intanto Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione Progetto Arca, e prima di chiudere, di andare a sentire il traffico e Mario Platero, un nuovo aggiornamento con Lucia De Mari, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, che torna in linea con noi per farci sapere qualcosa in più, se si sa qualcosa in più su quello che è successo appunto tra Ruvo e Corato, dove due treni si sono scontrati. Lucia, quali sono le ultime? Buongiorno, siamo ancora qui, 7 il numero accertato dei morti in questo disastro ferroviario. Adesso stanno arrivando le ambulanze con gli altri feriti, molti ragazzi a bordo delle due vetture, una partita da Corato ed una partita da Andria in direzioni opposte sullo stesso binario alla stessa ora, si sono incontrate intorno alle 11:30, si sono sbriciolate letteralmente e ancora i vigili del fuoco lavorano per veramente estrarre dalle lamiere, non è una frase fatta, è la pura realtà. Qui da Corato è tutto. E ti ringrazio, grazie ancora Lucia De Mari della Gazzetta del Mezzogiorno, ovviamente continueremo ad aggiornarvi nel corso di tutta la nostra programmazione. Adesso ci fermiamo, il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.